Pensate, quasi 1 miliardo di utenti in gesso, a spanne possiamo dire, però sicuramente gli 800-900 milioni di utenti che Facebook ha nel mondo generano una quantità di dati incredibile. Allora, se siamo capaci di elaborare, di interpretare queste informazioni, queste notizie, questi dati ci offrono molte indicazioni e sicuramente questo è uno degli asset principali di Facebook. Uno dei trend che Facebook sta guardando con attenzione è quello delle immagini, delle fotografie. Sembra una cosa poco nuova, ma Facebook sta investendo molti soldi in questo settore. Recentemente è stato annunciato l'acquisto di una società che si occupa di riconoscimento facciale, Face.com. A parte le assonanze con Facebook, e questo, come dicevo, è un trend estremamente interessante. Ne abbiamo parlato con Luca Colombo, che è country manager per l'Italia di Facebook. Ma già dal 2007 comunque abbiamo sviluppato questo servizio di immagini per i consumatori. Prima non c'era, se vuoi, album e raccolte fotografiche. Da quell'anno si è pensato a come arricchire ulteriormente i servizi e una delle principali richieste dei consumatori era quello di mettere le foto. Quindi oggi Facebook è il principale raccoglitore, se vuoi, di fotografie su internet con un larga margine rispetto a tutti gli altri. Quindi uno, siamo, se vogliamo, già ben posizionati, e certamente questa è un'area che, se vuoi, soprattutto nel raccontare la tua vita personale, nel tenere, se vuoi, i ricordi, è un'area importante per cercare di costruire sempre di più quella che è la tua storia all'interno della timeline Instagram, face.com e tante altre attività, tante altre acquisizioni vanno un po' in questa direzione, coniugandole insieme al mobile. Parliamo anche di numeri. Solo all'Italia, senza guardare a tutto il mondo, fate dei numeri incredibili. Beh, sì, i numeri continuano a crescere, fortunatamente, e ad oggi nel mese vediamo 22 milioni di persone che accedono a Facebook, appunto, almeno una volta al mese. Quindi non sono utenti registrati, ma sono utenti registrati e attivi, ossia che fanno almeno un'azione nell'arco di 30 giorni. L'altro dato importante da ricordare poi è il dato giornaliero, perché è quello che, se vuoi, ci può un po' confrontare ad altri mezzi tradizionali. Ci sono 14 milioni di persone che accedono a Facebook nel giorno. E l'ultimo dato, altrettanto importante, che rappresenta, se vogliamo, un po' un collegamento alla domanda precedente, ma se vuoi l'area sulla quale stiamo crescendo maggiormente, è l'ambito mobile, dove per mobile intendiamo cellulari e tablet. Oggi in Italia ci sono 10 milioni di persone che utilizzano Facebook da un dispositivo mobile. È un numero che sta crescendo molto velocemente e che più o meno segue il trend che c'è in tutto il mondo, perché già oggi abbiamo 488 milioni di persone che accedono da mobile ogni mese. Questo significa che accedono anche da mobile o solo da mobile? Anche da mobile. Infatti diciamo che nel mondo dei 900 milioni di persone 488 accedono da mobile, ma è anche da mobile, non c'è ancora un utilizzo univoco, se vuoi, singolo soltanto su mobile. Sono poche le persone che fanno questo tipo di esperienza. Oggi l'esperienza vincente è quella integrata, dove puoi vedere la tua esperienza desktop oppure mobile, quello che è lo strumento più conveniente in un dato momento della giornata è quello che utilizzi, quindi sono sicuramente sovrapposte. Ho sentito un dato che un po' mi ha sorpreso, cioè che sul mobile in Facebook, cioè quindi l'attività mobile su Facebook, in Italia non siamo tra i primi posti in classifica, è corretto? Ma è cosa strana, perché visto che sul mobile noi siamo storicamente, insomma, sempre tra i primi. Ma è una pura constatazione numerica che deriva dal confronto con quello che è la media mondiale, ossia nel mondo abbiamo 900 milioni di persone che accedono a Facebook nel mese. E queste sono circa 500 milioni che accedono da mobile, quindi più del 50%. In Italia, se prendiamo i numeri che abbiamo citato prima, vediamo che questo rapporto è sotto il 50%, quindi soltanto da un punto di vista numerico ci accorgiamo che l'Italia non ha ancora raggiunto altre nazioni come utilizzo da mobile di Facebook. Quindi è un puro numero, come dicevo prima, è un numero altrettanto che sta crescendo velocemente, quindi mi aspetto che si colmi il gap abbastanza rapidamente. Quindi il mobile internet è un'area che secondo me sta ancora crescendo e che sta colmando un gap forse rispetto ad altre nazioni. Voi fate soldi prevalentemente con la pubblicità. Che rapporto c'è tra la pubblicità sul computer, quindi in ufficio, in casa, e quella su mobile, visto che il trend della diffusione degli smartphone, della connessione ad internet tramite mobile, quindi anche della pubblicità su mobile, sta crescendo molto anche in Italia. Ad oggi, rispondendo direttamente alla tua domanda, il rapporto è sostanzialmente desktop, perché sul mobile abbiamo lanciato da qualche settimana la possibilità di avere una presenza con advertising, quindi ad oggi siamo ancora in una fase di sperimentazione e di beta, definita beta, per l'utilizzo di mobile per l'advertising. Quindi ad oggi stiamo ancora sostanzialmente vivendo un'esperienza da un punto di vista advertising che è prevalentemente desktop. È chiaro che questa è un'area sulla quale abbiamo un po' di attenzione, soprattutto perché, come dicevamo prima, gli utenti stanno crescendo in maniera importante, quindi quello che è il bacino sul quale andare, se vogliamo, ad attingere quelle che sono definite tecnicamente impression, sta vedendo il mobile come un'area importante. Di conseguenza ad oggi siamo ancora, la nostra, diciamo, tradizione, se vuoi, è desktop, però ci stiamo spostando sempre di più sul mobile ed è un tema delle prossime settimane e mesi sicuramente. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. La voce che avete ascoltato era quella di Luca Colombo, che è country manager per l'Italia di Facebook. Interessante aggiungere che, oltre alla pubblicità, Google fa un sacco di soldi anche con l'acquisto dei credits, che è la moneta di scambio per comprare beni virtuali all'interno di Facebook, come ad esempio giochi o altre cose che si possono acquistare. È tutto, ci risentiamo la prossima settimana. Non perdete la versione podcast del nostro programma. Andate su www.radio24.it, lì trovate nella sezione podcast tutte le informazioni per abbonarvi gratuitamente al nostro servizio, per scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, grazie ancora per l'ascolto, appuntamento tra 7 giorni. 2024. 2024. 31 seconds.